stato in questura in presenza dell'assessore Lepore e di un po' di altra gente. Il gabinetto del sindaco Montaldo. Ma cominciamo dalle cose importanti, ragazzi, è stata una grande giornata, è una grande giornata di resistenza. Bella lì le compagne sul tetto ancora, le compagne sul tetto ancora. Ma anche un grande abbraccio da questa piazza a tutte le compagne e i compagni che sono al nostro Media Center, che ha fatto sì che la notizia dello sgombero di XM oggi sia su tutte le pagine dei nazionali d'Italia, che ha fatto sì che oggi in questa piazza siamo tantissime e tantissimi e che la resistenza sia su tutte le prime pagine dei giornali. È la nostra resistenza ed è la nostra giornata ed è la nostra lotta ed è una nostra vittoria. Sì, è una nostra vittoria di tutte quelle che hanno sempre creduto e lottato della partecipazione con, dentro e attraverso XM24. È una vittoria della solidarietà e della determinazione. Diciamo anche un'altra cosa importante: non siamo contente di vedere una cazzo di ruspa che ha demolito il nostro spazio, non siamo contente che questa sera non potremo berci delle birre e stare insieme dentro XM, di questo non siamo per un cazzo contente. Ci sono delle cose che ci devono rendere invece felici, perché centinaia di persone in strada dalle 4 di mattina fino adesso, che ora è? Le 7 di sera al 6 di agosto sotto l'afa bolognese non l'ha mai vista nessuno. Di sgombero, uno sgombero che finisce senza nessuna denuncia, porco Dio! I compagni che sono sul tetto scendano vittoriosi! E questo risultato lo abbiamo ottenuto grazie a tutte e a tutti! Infine la burocrazia, che è quella che meno ci piace, ma in sto tempo di merda, con sto governo di merda e con questa amministrazione che è così amica o comunque usa le stesse parole di questo governo, purtroppo è importante anche quella, la burocrazia, cioè i pezzi di carta, cioè diciamo innanzitutto che rispediamo al mittente le dichiarazioni del sindaco Merola, che equipara le ruspe su XM alle ipotetiche ruspe sui fasci di Casa Pound. Porco Dio! Giunta del PD ha agito con XM in un modo altrettanto grave, a ruspe, come l'attuale ministro dell'Interno, e non c'è differenza in questo. Quello che però siamo riusciti a ottenere grazie a tutte e a tutti noi è un impegno serio firmato con una data per un nuovo spazio che verrà dato a XM24 per poter riprendere tutte le proprie attività in... che si impegna a trovare una nuova sede adeguata in cui fare ripartire le attività dello spazio quanto prima e comunque non oltre il 15 novembre 2019. Questa sede non sarà una sede qualunque, ma sarà valutata a partire dagli immobili che noi abbiamo già proposto all'amministrazione lo scorso 1 agosto. Sì, sì, sì. Immobili che sono tutti in Bolognina. È un impegno scritto che era uno degli obiettivi che ci eravamo dati, firmato Matteo Lepore in data odierna. Ecco. Però questo non vuol dire affatto che la lotta è finita, Regaz. No, la resistenza continua, perché noi non ci fidiamo per un cazzo. Siamo contenti della carta, ma la carta canta quando noi ce la prendiamo, come oggi. È grazie alla presenza di tante e tanti che abbiamo ottenuto questa carta. Sarà grazie alla presenza di tante e tanti questo giovedì al mercato che presidieremo intorno all'XM e martedì prossimo in assemblea, eccetera, che otterremo di prenderci il nuovo posto. Entro e non oltre il 15 novembre. Quindi, viva l'autogestione, viva la resistenza, continuiamo questo pomeriggio festeggiando un attimo e poi con grande responsabilità di quella che è la autogestione. Staremo su questo parco e festeggiamo questa bella giornata. Regaz, tornate giù con noi che vi vogliamo